Prima dell'alba le truppe di Israele hanno compiuto l'ennesima incursione. Decine tra carri armati, autoblindo e robuste corazzate sono essere ogni cosa, ciò che sogno, ciò che amo veramente. Sento, lo sento ancora, che l'amore non finisce di stupirmi. Guardami, fallo ancora. Ho bisogno dei tuoi occhi, dei tuoi sguardi, col corpo e con la mente. C'è guerra ancora, c'è guerra ancora. Cuori calpestati, stragi di innocenti. Vorrei che ogni cosa, vorrei che adesso tutto quanto si fermasse. Fare come l'aurora, che ha il potere di portare nuovi giorni, col corpo e con la mente. Servi la gente debole che accetta l'alleanza, se noi gli fai la prepotenza. Vedo tanta gente che non pensa che fa quello che gli piace, regna l'avidità. Gente indifferente se ne frega se là muore un innocente ogni passo che fa. Ripetutamente guardo fuori e da una parte c'è un sorriso, guardo fuori e dall'altra c'è un sorriso. Da una parte un'alleanza avanzata e dall'altra una nazione devastata. Cosa non va? Una domanda che nessuno oggi si fa. Sì, c'è un bel lavoro a casa, c'ha da magnà. Solo per i soldi in banca devi pensare. Non è colpa nostra se si stanno ammazzando. Cosa non va, ogni cosa? Non ho soluzioni, non ho componenti. Fermerei ogni cosa, solo se capissi bene, se potessi. Guardami, fallo ancora. La fortuna di sfiorare i tuoi capelli, col corpo e con la mente. Vorrei che ogni persona possa vivere coi propri sentimenti. Quello che sento ora, quando guardo nei tuoi occhi sentimenti. Chiusi nella galera della terra dei civili, dei potenti, col corpo e con la mente. Dove si va? Questa strada buia, che futuro sarà? Quanti intrecci dei pensieri stanno a parlare? Tutti con la presunzione, la verità. Tu c'hai torto e c'ho ragione, come si fa? A cambiare l'uomo, dimmi come si fa? A cacciare l'odio, come si potrà fa? A ridare a tutto il mondo l'identità. Vita è meravigliosa per chi come noi è libero d'amare. Come si fa a dormire tranquilli con chi sta a governare? So come le iene, senti. Bocca meravigliosa, poter fare tutto quello che sai fare. La parità, senza la giustizia che futuro sarà? Senza la giustizia voglio scegliere la mia strada. La fortuna di cadere, di rialzarmi, col corpo e con la mente. Col corpo e con la mente. Col corpo e con la mente. Col corpo e con la mente.